Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, ragazzi. Buonasera, buonasera a tutte e tutti, tutto l'ascoltatore di Radio Wombat, in particolare di Nervature. Di nuovo, quindi, un ben trovate. E siamo appunto su Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, ambiente, biologia, botanica, chi più ne ha più ne metta. Oggi grandissima puntata, ve l'avevo già annunciata settimana scorsa, ovviamente sempre lunedì alle 19, infatti, perché è la 50ª puntata di Nervature, e infatti oggi lo festeggiamo con voi ascoltatrici e con voi ospitesse in sala. Quindi potete salutare. Ciao Palù. Ciao a tutti. Ecco, guest is back. Esatto. Mi sentite? Sì, mi sentite? E, sì, sono di nuovo qui, non vi liberate così facilmente di me. E ciao anche a Zazzi. Ciao. Benissimo. Allora, a parte gli ultimi accorgimenti tecnici, che oggi sta essendo complicata la situazione. Abbastanza. Oltre che schiumando perché fa un caldo. Già. Va bene. E quindi questa è una puntata importantissima davvero, perché è la 50ª puntata di Nervature. Chi l'avrebbe mai detto? Io non ci credevo. Abbiamo iniziato noi, più anche un'altra compagna che ora non è qui, altre due, e quindi Yaya e Sissi. E Sissi, esattamente. Se siete curiosi, infatti, ascoltatrici da casa o dalla macchina, potete andare ovviamente a rispulciare tutte le vecchie puntate, perché sul sito di Radio Wombat, che è radiowombat.net, ci sono tutti i podcast di tutte le trasmissioni passate e presenti. Le future ancora no, ma immagino. Sarebbe bello. A volte sì, perché quando registriamo si carica sul sito il podcast, che poi va in onda, e a volte qualcuno lo carica prima che vada in onda. Quindi, ma come siamo tecnologici? Hai visto? Quindi io direi di inaugurare immediatamente con una canzone che è decisamente consona a questo argomento odierno del compleanno della 50ª puntata. Quindi buon ascolto, questi sono i Police, anzi The Police, Born in the 50s. Born in the 50s. E quindi questi... Buonasera, mi sentite? Yo, sì. Quindi questi erano i Police con Born in the 50s, quindi nati negli anni 50. Noi non siamo nati negli anni 50, ma bensì 50 anni fa. Non è vero, 50 puntate fa. 50 settimane fa, teoricamente, in realtà no. No, perché ma è vero. Varie pause nel mezzo e varie così. Diciamo che festeggiamo le nozze d'oro di questo programma. Sì, in un certo senso sì. Sì. Molto vero, romantico. Sì, soprattutto sì. Addo, che è la persona che ci sta dietro, è proprio la presa a cuore questa missione della radio. Lei si può dire che ha effettivamente sposato questa causa e quindi può festeggiare con grande onore le nozze d'oro. Tra l'altro mi fa pensare che forse potrei anche inaugurare, diciamo, potrebbe anche essere la mia 50ª puntata in radio in generale. Probabilmente, è vero, sì. Anche se qualcuna però l'avevo fatta. Cioè, scusa, l'avevamo fatta, ma io non c'ero. Però c'eri via telefonica? No, anche una avevi fatto le chiacchiere melodiche, sì. Senza. Con Sissi. Ah, è vero. Quindi siamo a 49. Però una volta ho fatto, sì, ho recuperato, perché ho fatto la staffetta radiofonica. Quando allora. Era? Non mi ricordo. Comunque. Già, te lo ricordi, certo. Sì. La staffetta radiofonica in sostegno alla Palestina, e nessuno mi ha sentito perché non ho parlato, ma ero a armeggiare con i volumi, insomma, ero in regia. Quindi comunque quindi vale doppio. Sì, sì, sì, giusto. Sì, sì, dai, quindi secondo me a 50 ci sono arrivata. Poi in realtà, aspetta, ora dipende cosa uno intende come puntata, perché qualche volta ho rimandato audio magari di qualche conferenza e cose così, a volte senza nemmeno presentarla. Ma basta il pensiero. Esatto, cioè comunque quindi ti hai pensiero pensato... nella scelta c'era. Esatto. E nell'anche mandare, cioè quindi sia pensiero che azione alla fine, sì, lo sì, stesso. Sì, sì, quindi quello c'era. Era, quello attiva, c'era. Era attiva come questione. Sì, sì, sì, quello c'era, bene. Chissà voi a che numero siete. No, io sarò forse la quinta. Contatele, quando si arriva a 50 si rifesteggia. Va bene, okay. Nella prossima canzone ci mettiamo a contare le nostre. Vai. Perfetto, prossimo pezzo. Vi facciamo sapere. Allora mettiamo un altro pezzo. Vai. Ah già, così subito. Okay. Subito, dai. Perché come avrete ipotizzato già voi ascoltatrici, in questa giornata speciale della 50ª puntata di Nervature su Radio Wombat, stiamo mettendo tutti i brani che si chiamano 50 o che hanno 50 nel nome o che parlano del numero 50, anche se non c'entrano una mazza. Alcune sono trashissime. Sì, sì, sì, alcune terrificanti, alcune trash, alcune ignote, con linguaggi assurdi. Pensate se davvero ci stessimo sposando e questa fosse la nostra playlist, tipo da sala da ballo. Orribile. Tutte le persone felicissime. Sì, o felici oppure schizofreniche, perché sono tutti stili diversi. Esatto. Adoro, bellissima, bellissima. Però continuiamo per ora con le canzoni belle. Vai, quelle vai, quelle vai. Brutte ce le teniamo per dopo. Non è vero, si va solo a migliorare, rimanete qua. Certo. E quindi anche in continuità, diciamo, di genere con la canzone precedente, mettiamo 50 Ways to Leave Your Lover, Paul Simon. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jeff. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, leave, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me. And I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Guess who's back, guess who's back. Siamo tornati qui su Radio Wombat. Se ci seguite dal sito radiowombat.net, se ci volete scrivere, noi siamo veramente entusiaste. Diretta wombat.vado.li. Ora avete tutti i riferimenti per interagire con noi. Benissimo. Questa era 50 Ways to Leave Your Lover. Senti che pronunciation. Di Paul Simon. Simon, insomma. Sì, esatto. Anche detto Simon dagli amici. Esatto, esatto. Sì, davvero, mi raccomando, scriveteci numerose sul pad, che è il foglio di testo condiviso, che è diretta wombat.vato.li, appunto il link. Scriveteci, così potete commentare, insultarci o così contribuire. Io ho fatto la faccina triste. No, no, no, ma noi siamo, no, siamo contenti anche se ci insultano, giusto? Oh, vabbè, è una interazione, diciamo. Dai. Purché ne parlino, si parla anche male. Giusto, la pubblicità funziona anche quando è negativa, eh. Esatto, sì. Esatto. No, guarda, no, funziona, è una funziona, legge funziona, politica, non so. Incredibile. Davvero, davvero. E, sì, e niente, quindi a quante puntate siete voi? Ma io le sto ancora contando. Ah, quindi il numero è alto, insomma. Abbastanza. Ho scoperto di superare le 5 puntate. Eccoci. Visto. Come mi ero detta, invece. Io mi sa 10, però. Wow. Wow. Allora, dieci, forse... Questa è la decima? No, questa è l'undicesima. Mannaggia. 10 passate, questa è la decima. Se no sarebbe stato bello, tondo, tondo. Però siamo... potrebbero anche scriverci quante puntate hanno ascoltato. Bello. Giustissimo, giustissimissimo. E per essere sicure, infatti, ripeto, guardate la pagina trasmissioni del sito, che anche se dovete un po' scovare il modo per trovare tutte le puntate, esatto, insieme, perché il sito ha un piccolo problema temporaneo, ma so che ce facilmente, diciamo, sì, esatto, è intuitivo. Ma sì, dai. Non noi che non siamo state lì a schiacciare lo stesso bottone per 15 esatto, minuti prima di capire. Sì, no, a parte scherzi, come sapete Radio Wombat è una radio autogestita, quindi nessuno di noi è pagata, e quindi facciamo tutto in modo volontario e molto, molto volontario, nel senso ci fa molto piacere farlo ed è per questo che siamo ancora qua. Motivo però per cui ogni tanto si rompe qualcosina e quindi magari ogni tanto non funziona una cosa, non funziona un'altra, ma piano piano la rimettiamo a posto. Non vi preoccupate, anzi siate fiduciose. Più fiducia avete, più meno tempo avrete ad aspettare. Esatto. Esatto. Sì, sì, sì, sì. Bene. Dunque, allora, potremmo iniziare a dire qualcosa di sensato oggi, forse? Ok. Ok, ci siamo, cambia il mindset, aspetta. Sì, esatto, mi programmiamo. Ok. Il disco, quello scienza, esatto. Quello chiacchiere. Cavolo. Esatto. Io intanto potrei iniziare a buttare giù qualche canzone di sottofondo molto... Sì. Molto colta. Giusto? Colta? No, non corta, colta, eh? Ah, colta, ok. E come mai, come mai? Come mai? Allora, vi diamo un indizio. Il nome dell'artista c'entra con il titolo della puntata, con il numero simbolo della puntata, ovvero... 50. Esatto. Quindi è un tappetino, diciamo, una canzone di sottofondo di 50 Cent. E così, per un po' il buffo. Ma sì, dai. Questa, come avete ben capito, è una puntata così celebrativa, a chiacchiera, tranquilla. Ora inizieremo anche a dire qualcosa di sensato, ve lo promettiamo. Ma per ora godiamoci questo tappetino molto colto. I sit back, twist the best bud, burn and wonder when gangsters bump my shit. Can they hear my hunger? When the fifth kick, duck quick, it sound like thunder. In December, I make your block feel like summer. The rap critics say I can rhyme. The fiends say my dope is a nine. Hey, chick I fuck with is a dime. I'm like Patti LaBelle, homie, I'm on my own. Where I lay my hat's my own. I'm a rolling stone, cross my path, I cross you. Thinking I won't touch ya, I had your ass using a wheelchair. Cane no crutches, industry hoes, fuckers. In the hood, they love us. Stomp a bone out your ass with some brand new chuckers. What up, blood? What up, cuz? What up, blood? What up, gangsta? What up, blood? What up, cuz? What up, blood? What up, gangsta? We don't play that. We don't play that. We don't play that. G-Unit. We don't play around. We don't play that. We don't play that. We don't play that. G-Unit. We don't play around. We don't play that. We don't play that. We don't play that. G-Unit. We don't play around. We don't play around. E colpo di scena, Palù è precisamente alla decima puntata quest'oggi. Esatto. Quindi non solo dobbiamo festeggiare cinquantesima puntata di Nervature, ma anche la decima puntata di Palù. Perché Dova ormai è già nel secondo decennio. No, è incredibile, sì, ti giuro, sto lottando per la ventesima. Wow, io sono un po' più giovane, sono più piccina e quindi festeggio i miei 10 anni. No, 10 anni no, 10 puntate. E quindi inauguriamo anche queste 10 puntate, dai, perché no? Ho visto un uomo che moriva per amore. Ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazze per me, solo per me. Una la voglio perché sa bene ballare. Una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore. Una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me. 10 ragazze così che dico solo di sì. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto. conosce perché ha detto una cosa vera. Dieci ragazze per me possono bastare. Dieci ragazze per me io voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. Dieci ragazze così che dico solo di sì. E quindi sì, appunto 10 puntate, 10 ragazze, 10 puntate, insomma più o meno siamo lì, cioè esatto, queste ragazzacce di puntate. Esatto, ecco, poi ecco, Zazzi ci suggeriva anche 10 ragazzi cantata da Mina, e però noi non l'ascolteremo adesso perché non è, diciamo, la mia puntata, ecco. Ma invece quindi sei anche al 10% della tua storia radiofonica, sì, ovviamente. Sì, possiamo dirla così, possiamo dirla così. Eccola, eccola lì, infatti questa che sentite qua sotto è 10%, appunto, 10% forse, di Kate Ranada. Quindi tanti auguri anche a te, cara Palù, per grazie, questa tua decima mille. Puntata. E ma ovviamente anche a te, Zazzi, per la tua undicesima, ma festeggeremo meglio la ventesima. Sì, sì, esatto. Vai, facciamo vai, così. Con esatto. Spumante e petardi. Esatto. È comunque tutto registrato, quindi poi... No! Oh no! Cavolo! Comunque. E quindi infatti ascoltatrici, se vi vengono in mente canzoni col numero 20, fateci sapere. O 11. In anticipo. Ma sì, le mettiamo da parte. O 11. Esatto, eh. Esatto. Tanto questa è una puntata un po' paxerella, ci siamo detti in regia. Facciamo un po' così, si hackera, si mette musica, 50, 10, 11, che cavolo. Tombola, via. Ma sì, no, invece io proverei a fare una nota di serietà in questa grande confusione. E, infatti volevo chiedervi una cosa bellissima, perché io ho iniziato qualche mese fa, e qualche ascoltatrice magari già lo sa, una rubrica, l'unica rubrica per ora esistente su Nervature, che si chiama Pianta Storia. Pianta Storia, dal questo nome credo molto simpatico, spero infatti piaccia, è una rubrica in cui io vi chiedo di raccontarmi una vostra storia personale, meglio ancora personalissima, con della vostra vita personale, appunto, che riguarda una o più piante, vive, morte, possibilmente vive, recise, non recise, potenziali, chissà, qualsiasi cosa, okay. Semi, insomma, perché no? Bene. E quindi ve lo chiedo proprio perché mi interessa diciamo il motivo per cui è nata un po' la pianta storia, questa rubrica, è che mi interessa vedere che rapporto c'è fra gli umani e le piante, dal punto di vista cosciente, intendo, perché noi sappiamo che di rapporti ce n'è, come tipo di interdipendenza necessaria, certo, per esempio. Funzionali. Quindi, però voglio vedere come le persone guardano le piante, come le percepiscono, come se ne accorgono. Mm-hmm. Se ci fanno caso spesso. Ti ricordi, Addu, si fece una puntata sulla plant blindness? Sì, certamente, esatto. Bellissimo. Questo forse è un po' l'inverso, no? Questa rubrica. Esatto. Proprio per capire appunto questo rapporto quando c'è o quando non c'è. Infatti più di una volta è capitato che la pianta storia di ospiti che avevo in regia era mi hanno regalato questa pianta e poi è morta. Fine. Dice, bene, piccola storia triste. E però ci sono anche queste, quindi è giusto accettarle. Quindi io però innanzitutto manderei la sigla, perché Pianta Storia ha una sigla. Oh, non la conosco, fammi e voi sentire. Non la conoscete. La cosa infatti buffissima è che abbiamo fatto un sacco di puntate insieme, e però voi... forse non so, è da tanti mesi che non facciamo puntate insieme, mesi. Non so perché, o forse mi sono scordata di chiedervela. Fatto sta che ancora voi non avete partecipato a questo rubrica, nonostante in realtà la regola sia appena qualcuno di nuovo viene in regia, gliela chiedo. Ah! In realtà già settimana scorsa è andata male perché ce ne siamo scordati. Era a fare puntata con un amico, Andrea, e ci siamo scordati entrambi di questa cosa. Quindi bene, dai, ne racconteremo più a noi. Infatti, ci siamo lasciati così. Sì, sì, infatti. I nostri esperti interessati a dialogare con le piante. Pianta Storia. La sensibilità. Pianta Storia. Bellissimo. Ed eccoci qua. Fenomenale. Molto molto carina. Super simpatica. Tra l'altro non mi ricordo se l'avevo già detto, no, ma questi suonini angusti che si sentono in sottofondo è perché, e le voci anche all'inizio, è perché io ho preso un video che poi penso di aver scoperto dopo essere in realtà tipo il primo documentario sui segnali elettrici sulle piante, cioè pazzesco, in cui appunto attaccavano questi elettrodi alle piante e sentivano cosa ne veniva fuori, delle onde a cui davano una frequenza, cioè udibile, a cui facevano suonare la frequenza. Insomma. Ok. Sì. E, quindi, chi vuole iniziare di voi due? Oddio, questo onore a me, dai, che è la decima puntata. Fatti, e quindi ovvio. Mio compleanno, allora vai. Iniziamo. Allora, quando mi hai detto di raccontare una storia in questo momento sulle piante, ho avuto subito un flash, nel senso che solitamente no, si ricordano meglio le cose che sono indietro nel tempo, che ti hanno segnato nell'infanzia, e ho pensato un po' alla, diciamo, a una pianta che ha caratterizzato la mia infanzia. Questa prende il nome volgare di salice piangente, nome scientifico non me lo ricordo, sono pessima, però diciamo questa pianta è stata, diciamo, una protagonista nella mia vita. Perché? Perché praticamente il mio nonno, insieme alla sua moglie, abitavano in campagna, e vicino a questo giardino, che era veramente un luogo ameno, super curato, bellissimo, c'era questo salice, un salice piangente. Io chiedevo alla mia mamma: mamma, ma che cos'è questo albero bellissimo? Era molto grande, sarà stato alto 7 metri, quindi non, diciamo, non banale. E lei mi ha risposto: un salice piangente. E allora, diciamo che la cosa bella è che io potevo nascondermi in mezzo alle fronde di questo salice e facevo finta, insieme a mio nonno e a mia sorella, di fare la doccia. E quindi le foglie erano le goccioline, e quindi c'era questa sensazione bellissima di sentirmi parte integrante dell'ecosistema albero. E quindi mi sentivo, potevo essere un uccellino, potevo essere un insetto, potevo essere me stessa, un capriolo. Insomma, una qualsiasi cosa che mi facesse ricordare appunto questa fibra, sentirmi fibra dell'universo, come direbbe il nostro caro Ungaretti. Allora, cosa si può dire altro del Salice? Il Salice, a proposito di poesia, è stato protagonista anche di un'altra, diciamo, di un'altra opera bellissima che appunto collego sempre a questa pianta, che è Alle fronde dei salici di Quasimodo. E per me è una poesia strepitosa. Ha un sacco di dolore dentro, e però alla fine anche, diciamo, un senso di comunità, nel senso una comunità che sta male e però insieme soffre, ma alla fine riesce, diciamo, a superare questa cosa. E quindi, se volete ve la leggo, non sono una brava attrice, quindi abbiate pietà di me, però ecco, Quasimodo, grandissimo poeta, quindi l'importante è che venga citato. E come potevamo noi cantare, con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cete erano appese, oscillavano lievi al triste vento. Questa poesia strepitosa la portai, se non sbaglio, all'esame di terza media, proprio perché mi ricordava questo momento. Io avevo vissuto un momento felice in correlato al Salice, e c'è chi invece aveva vissuto un momento molto triste, come ad esempio le persone, questa poesia parla appunto della Seconda Guerra Mondiale, delle persone che sono morte, dell'urlo nero, una scena strepitosa secondo me, di chi è rimasto e ha visto morire la propria gente. Quindi un albero può essere protagonista di sentimenti positivi e negativi, però comunque c'è. È lì che ti dà un supporto, sia, diciamo, per come dire, affrontare una situazione, che per corredarla di un giusto sentimento positivo. Ecco, questa è la mia prima pianta storia. Grazie, bellissima, bellissima. Bravo, grazie, sì, anche per l'approfondimento, tra l'altro ad essa correlato. Davvero, davvero grazie. Poesia molto toccante, effettivamente. Mm-hmm. E, tra l'altro c'è anche in programma, a un certo punto arriverà nella storia di Nervature, una puntata sulle poesie, una, cioè almeno meraviglia, una puntata. Voglio partecipare. Volentierissimo. Già direi perché... che hai iniziato alla grande con questa, esatto, una bella apertura. Questo era un piccolo spoiler. Davvero? infatti. Emozionante. Benissimo, benissimo. Allora, io proverei a mandare un pezzo, perché in realtà possiamo entrare in collegamento virtuale e virtuoso, così per dire, con... Ci siamo dati a questa vena... Ma sì. Poetica. Sì, e con Maurizio, che già voi ascoltatrici avete conosciuto qui in radio in diverse puntate, perché anche lui ha un'altra pianta storia da raccontarci. Lui già ce ne raccontò una non so quanto tempo fa, ma adesso ce n'è un'altra. Quindi mando magari un pezzo musicale, nel frattempo provo a stabilire il collegamento. Va bene, quindi ci risentiamo fra pochissimo. Si seguimos intentando ocultar los pequeños fracasos tras espejos nacarados y en modernos artefactos, bebiendo y fumando y la vida pasando. Es el miedo el que me envuelve. Todo lo que se siente al oír. Ed eccoci quindi, dovremmo essere in collegamento con Maurizio. Dicci se ci senti. Buonasera a tutti e tutte, io mi sento forte e chiaro. Benissimo, benissimo, anche te, noi ti sentiamo, dovrebbe essere tutto funzionante, sì, tutto regolare. Sì, infatti c'è, è un'emozione. Bello, bellissimo. Che funziona. Sono felicissimo di essere qui a questo compleanno, traguardo, con anche questa nuova funzione sbloccata. Esatto, esatto. Infatti cioè, stiamo inaugurando un quantitativo di cose in questa puntata, sia la 50ª puntata di Nervature, sia la 10ª puntata di Palù qui in regia con noi, sia questo nuovo sistema incredibile funzionante delle chiamate in diretta. Oh vai, gufata! No, no, dai, no. Guarda, salterà sicuramente la linea a breve. No, no, no, no, no, noi siamo fiduciose. Se soprattutto le ascoltatrici sono fiduciose, andrà tutto benissimo. Vai. Bene, e quindi Mau, ti abbiamo chiamato, grazie per essere qui con noi, infatti, o più o meno qui con noi, ti abbiamo chiamato per sentire da te una tua seconda pianta storia, perché già una ce n'hai raccontata, non la andiamo a ripetere perché chi vuole va a ritrovarsela nei vecchi podcast, e quindi a te la linea, diciamo, per raccontarci una nuova pianta storia. Benissimo, allora, la mia pianta storia numero 2 riguarda un sinonimo albo variegato a cui tengo perché ancora vivo particolarmente, che era stato un po' maltrattato, no? me ne sono iniziato a prendere cura e avevo perso addirittura la variegatura, rinascevano verdi, al che l'ho messa in questo bel periodo di primavera estate sul balcone e l'ho vista riprendere grandissimo vigore, fino a che la mia gatta futura ha deciso di potare parte della pianta. Porella. Adesso l'ho messa in una al sicuro, protetta, in posto dove non può arrivare. Un'interazione piuttosto aggressiva da parte della tua gatta. Sì, a me piacciono molto le piante, ma non credo che sia ricambiato questo amore delle piante verso il ragazzo. Non credo, forse era un po' gelosa di tutte le cure che gli prestavi a questa pianta e quindi ha detto basta, ti faccio fuori. Può darsi. Le piacciono talmente tanto che se le mangia, insomma, le piante. No, ho proprio posate nette proprio, le foglie, ta. Piccola giardiniera. Ah, perfetto. Oddio, ora ci rompe il lavoro. Esatto. Ma pensa te. E insomma, ripeti un po' che pianta era, che all'inizio forse si è mancato un po'. Un gonium variegato, albo. Ok, benissimo. Quindi era questa bellissima rigatura bianca, che adesso ha ripreso molto bene, molto in salute adesso. Bene. Sei stato approvato dalla regia, sei stato bravissimo a recuperare questa pianta ormai quasi perduta. Okay. Grazie. Allora, potremmo, se vuoi puoi rimanere in linea, e potremmo passare a una successiva pianta storia, e quindi potrebbe essere questa volta Zazzi invece a raccontarcela. Ok, allora la mia pianta storia in realtà è su piante storia. E parla di, anch'io diciamo, recupero memorie infantili, o forse no, della mia infanzia infantile, e di quando appunto ho iniziato a interagire in maniera più esplorativa con certi alberi, e nello specifico sono stati tre quelli che mi hanno portato a conoscere meglio, diciamo, questi individui. E uno è la tamerice, che si trova tendenzialmente al mare, ma non so perché sia anche nel mio giardino di casa. Okay. Che è molto lontano dal mare, infatti a me da piccola questa cosa confondeva. E un altro invece erano dei carpini, che però avevano una forma particolarmente, cioè non diciamo unico fusto con il sopra la chioma, ma avevano più fusti direttamente dalla base. Ok. E quindi avevano una forma anche molto, diciamo, divertente, su cui potersi appunto arrampicare, dondolare, stare tutti insieme su diverse ramificazioni. E in ultimo viene detto da alcuni amolo, da alcuni mirambolo, comunque Mirabolano, okay. Mirambolano. E che dovrebbe essere comunque un nome scientifico, Prunus cerasifera. Sì, penso, una cosa del genere. E questo albero era vicino a una gelateria in un parco dove andavamo solitamente quando appunto ero piccola. E grazie a quest'albero in realtà ho incontrato una delle mie più grandi amiche e insieme appunto davanti a questo baretto dove all'epoca sedevano le nostre madri a chiacchierare, che anche loro appunto se l'ho conosciuto grazie a noi che interagivamo, okay. Abbiamo iniziato ad esplorare questi vari piccoli alberini che crescevano lì davanti, tutti appunto di Prunus, creandoci le nostre case, andando a prendere lì il tè e a mangiare lì il gelato, a cercare di arrampicarlo in maniere sempre diverse, una sopra l'altra, buttandoci giù, eccetera. E niente, sono... E queste, diciamo, sono forse state le mie prime interazioni in maniera più consapevole di, appunto, queste... questi alberi. Che insomma ti hanno lasciato un ricordo, quindi consapevole in quel senso. Sì, ecco. Sì, esatto. Bellissimo. Bello, bello, davvero. Sì, bello. Mi ha sbloccato un ricordo, è bellissimo. Vai, raccontaci, sì. Dai, no, penso che tutti da bambini, in un modo o nell'altro, ci siamo sempre arrampicati sugli alberi. Certo. E io ne avevo uno in particolare sotto casa, dove ci arrampicavamo sempre io e il mio migliore amico del tempo. E no, effettivamente sì, mi ha proprio sbloccato quei ricordi lì. Bene, bellissimo. Fa piacere. Quanto è bello arrampicarsi sugli alberi. Sì, sì, sì, sì. Ma poi, sì, infatti, c'è proprio una maniera anche, cioè proprio fisica di interagire, capire, sì, un po' le forze, anche di tua consapevolezza, perché ovviamente da piccolino, insomma, poi vai su queste alberature e non sai se terrà, non terrà, devi stare attento, certo, cioè anche tutto un po', esatto, un... Uno studio, sì, sì, sì. Certo. Chissà se è perché magari ci vengono fuori le volontà scimmiesche, sì, nostre. Sì, di sicuro. Qualcosa di atavico dentro. Ci dice, davvero. Sali su quell'albero subito. Sì, perché è proprio... cioè, è una cosa comunissima nei bambini, soprattutto. Vabbè, la chiamata con Maurizio si è terminata per qualche ragione. Probabilmente ci aveva anticipato che sarebbe caduta la linea e... Ed è caduta. Esatto. Ira funesta. Si è abbattuta su di lui. Però almeno è riuscito a dire la sua, esatto, pianta storia. Facciamo un break con una canzone? Assolutamente sì, direi di quindi continuare e perpetuare questo... vediamo se funziona l'altro, perché qui ci stanno succedendo cose strane. Stranissime, su computer, mamma mia. Stranissime. Va bene, e però troveremo una canzone che sicuramente si chiamerà... 50! Esatto, questa è 50 CCM... Non abbiamo ancora capito perché cosa sta CCM, però boh, ditecelo voi in diretta wombat.vado.li di Trim. Buon ascolto. Auf alles, was noch kommt und auf alles, was mal war, es gibt nichts, das uns noch trennt. Marlboro Autobahn, lass Erinnerungen brennen. Auf alles, was noch kommt und auf alles, was mal war. Es gibt nichts, das uns noch trennt. 50 CCM, Marlboro Autobahn, lass Erinnerungen brennen. Auf alles, was noch kommt und auf alles, was mal war. Es gibt nichts, das uns noch trennt. Nichts und niemand kann uns trennen wie Bayern, Österreich. Wir lassen keinen fallen, weil jeder von uns Größe zeigt. Wir betreiben lieber Rennsport im Wald, trinken 16,5 halbe, lenken uns ab von euren ganzen Regeln und euren Grundprinzipien. Sie stellen sich in die Quere, nur weil wir nicht so wie die sind. Weil wir unsere Beamer tief verlegen und am Kies durchdrehen, ohne ein Ziel im Leben. 50 CCM, Marlboro Autobahn, lass Erinnerungen. Dorf, ich wollte heute lieber 50 cm schwarz fahren ohne Ziel. Sie fragen, was hat sich verändert seit den Liedern? Ich sag, bis auf ein paar Zeilen gar nicht viel. Ich trinke auf die Nächte, trinke auf mein Team, trinke auf die nächste Liebe, ich will nie mehr zu Marie. Mehr Narben als die Felgen, so vieles ging schief. Doch heute lassen wir brennen, ganz egal was vor uns liegt. 50 cm, Marlboro, Autobahn, lass Erinnerungen brennen. Auf alles, was noch kommt und auf alles, was mal war, es gibt nichts, das uns noch trennt. Qua. E quindi la nostra traduttrice dal tedesco ci fa sapere che questa canzone significa 50 centimetri cubi, siamo sì, tutti dovrebbe d'accordo. Essere così. Ok, e infatti nel video c'è lui che giocherella con una moto d'acqua, insomma. Esatto. Quindi forse era la cilindrata del motore, non lo so di preciso. Vabbè, però c'è 50, quindi a noi ci basta. Sì, questo, infatti, ecco. Infatti, stavo palesemente celebrando anche lui il 50esimo esatto. Puntata di Nervature, mi sembra ovvio. Ti io ti voglio vedere dopo a scrivere tutti i titoli, come fai sempre, una scaletta, si chiameranno tipo tutti 50, sarà un casino. Sarà divertente, sarà divertente. Allora, io rimetto la playlist di sottofondo, okay. Bellissima, che ci stavamo tenendo già da prima, esatto. Se la trovo. Nel frattempo io vi porto i saluti di Maurizio, che purtroppo gli è caduta la linea, diciamo, gli è caduto il collegamento, e non può richiamare, quindi vi saluta. E niente, quindi abbiamo sentito anche la sua pianta storia, molto interessante. Maurizio è super simpatico, una bella voce. Perché sì. Non vieni in regia dal vivo? È venuto tante volte. Bene, sono contenta. E, insomma, Teatro, io rimetto storia. Io rimetto questo tappetino molto colto di nuovo. Io non ce la faccio. Ovviamente. Sì, oggi proprio siamo su un mood di Nervature, cioè mi sembra proprio il tipo di canzoni che uso di solito. Sì, sì, sì. La prossima rubrica è Reparle le piante storie. Bellissimo sarebbe. Sono arrampicata. Yeah. Meraviglioso. Senti, Ad, ci racconti una tua pianta storia? Molto volentieri. Allora, molto volentieri, perché in realtà una io l'ho già raccontata. Perché nel complicata puntata in cui avevo iniziato questa rubrica, ovviamente toccava anche a me il turno. Giusto. E è una storia che voi conoscete già, che è quella del basilico che ho riportato. Eccolo. Dal mio viaggio in Africa. Era ovvio. Ovviamente. Grande storia, giustamente. Grande storia. E, però non la voglio ridire, ma cioè, in sintesi, appunto, era questo basilico che ho comprato in un viaggio in Africa, mi sono portata per mesi dietro in viaggio, in macchina, poverino. Nel lavandino della macchina. Sì, nel lavandino della macchina. E quindi ha visto tutte le latitudini possibili, perché insomma è stato un viaggio avventuroso. E poi è tornato, cioè è arrivato a Firenze. E quindi adesso è questo. Il bello di questa seconda parte della pianta storia, wow. Part 2, in cui avevo terminato la prima parte dicendo che l'avevo seminato e chissà se poi sarebbe uscito. E oh. Oh, è uscito! Quindi la nostra piccola Tarfi è viva e vegeta, o meglio Tarfi Junior. E sono nate ben 7 piante. Hai capito, Tarfi? Da tutti i semi, però ho ancora semi da parte per riseminarli, vediamo cosa viene fuori. La cosa bella è che davvero questa storia si sta perpetuando. Davvero? Sì, sì, perché le ho fatte germinare un po' a casa mia, un po' da un'altra parte, insomma, così casualità, vabbè. Insomma, e quindi ho iniziato a una certa, poco tempo fa, forse da un mese fa, a regalarle queste piante. No. Perché io di 7 tarfi cosa me ne facevo, ovviamente. Del pesto. Sì, alla faccia del pesto. Quindi l'ho regalato a una dei miei genitori, una di qua, una di là, tra cui anche ai ragazzi e ragazze, insomma. Anzi, ragazze e ragazzo che erano con me in viaggio. Ah, quindi bello. Loro che hanno visto, che mi hanno visto portare a giro sta pianta sofferente, poverina, stava malissimo. Ti immagini? Ma sì, pochissima luce. Poi la... Davvero, mi sarei immaginata il contrario. No, perché stare dentro la macchina non, quasi mai aveva il sole diretto. Ah, è vero. E quindi ce l'aveva tipo la mattina, la tiravamo fuori dalla macchina a mezzogiorno perché... Poi diciamo così. Che l'Africa non è proprio l'ambiente naturale del basilico. No, proprio. Proprio, no, infatti, no, già infatti averlo trovato, ma infatti era un basilico persiano, credo, che non è appunto il nostro genovese, c'ha le foglie più piccole, più simile al basilico greco, diciamo, molto molto molto aromatico, buonissimo, e quindi appunto l'ho regalato un po' a giro, tra cui anche agli amici del viaggio, insomma in generale l'ho regalato a persone che o erano in viaggio con me o comunque mi avevano seguito durante il viaggio, che appunto i miei genitori, supportato. Per esempio, supportato e così. Quindi adesso tutte queste persone hanno con sé una Tarfi Junior e gli abbiamo detto fanne quello che ti pare, però quando farai i fiori almeno una spiga tienila e facci fare i semi. Certo. Quindi poi o la risemi di te o comunque mi rendi i semi a me. Bellissimo. E quindi vediamo cosa succede. E non solo, però ancora più diciamo particolare la questione, perché... Tutte le 7 piante che sono venute fuori in realtà sono tutte diverse. Come? Allora, sicuramente Tarfi si è autoimpollinata. Ok. A meno che non sia fertile anche con altri basilici. Questa è l'unica altra possibilità. Magari c'erano altri basilici vicini. Boh. Altrimenti, come più probabile... No, perché ha fatto i fiori quando era già a Firenze. Sì, immaginavo. Ecco. E quindi... probabilmente si è autoimpollinata e però a quanto pare non era una genetica molto stabile. Infatti mi viene da pensare che magari noi nel mercato a caso dove si era trovata, appoggiata in terra, dove si è comprata, magari anche loro avevano riprodotta da seme, quindi forse appunto la genetica si stava un po' sfaldando. Tant'è che infatti queste 7 piante, alcune sono visivamente identiche a Tarfi, ma odorano poco. Invece Tarfi odorava tantissimo. Ok. Alcune invece hanno le foglie enormi, sembrano quasi un basilico genovese. Wow. Okay. E alcune una via di mezzo, alcune adorano tanto, alcune meno. Boh, chissà. Random, proprio casistica totalmente aleatoria della genetica. E la, comunque appunto per terminare la storia, la cosa bella è che la maggior parte, diciamo, delle persone a cui l'ho regalata, perché sa, alcune non è che gli frega un cavolo delle piante, vabbè, ci sta, lecito. Ma altre invece erano contentissime. Certo. Cioè, proprio una cosa che... Quando gli ho detto che gliela regalavo, mi hanno guardato e mi hanno detto ma che regalo bello, ci starò dietro tantissimo. Bellissimo. Cioè, è diventata qualcosa di importante anche per loro, non solo per me, povera ma scema. Cioè, pensaci, nel senso, alla fine è una pianta che ho comprato non in un altro stato, ma in un altro continente addirittura, ha viaggiato per tutto il deserto, è riuscita comunque a sopravvivere, il che non era scontato, in un ambiente che non era il suo e comunque un ambiente abbastanza ostile. E te regali un pezzo di storia, della tua storia del viaggio in Africa, che comunque è condiviso con noi, con la posizione, con tutto il diario di bordo che facevi, eccetera, eccetera. E te hai voluto condividerla anche proprio con un essere vivente. Non è banale come... cioè, è importante. Sì. Infatti, proprio per questo per me ha tanto valore Tarfi e tutti i Tarfi Junior. E... troppo buffo chiamare Tarfi Junior comunque. Tra l'altro, perché la chiami Tarfi? Allora, ripeto quindi una parte della storia. Perché... ah, scusa. Nel momento... no, tra l'altro in realtà non mi ricordo se già l'avevo detta, sinceramente. Perché cioè, avrei potuto parlare di un'ora di questo basilico, come ti puoi immaginare, quindi invece dovevo un po' stringere. Il motivo è che il posto in cui l'abbiamo comprata si chiama Tantan, la città si chiama Tantan, quindi dovevamo mettere anche questo nome, ma vicino c'era un altro paesino che si chiama Tarfaya, Infatti il nome di Tarf in realtà è Tarfaya Mohammed Tantan. Oddio! Cioè, ha tre nomi. Nomi di me. Sì, perché Tarfaya era un momento in cui si ripeteva in continuazione il suo nome, perché era Tarfaya, vabbè, pigliava bene, era divertente, ma che ne so. Un insomma, bel nome. Sì, uno di questi scherzi che vengono fra amici, va bene. Quindi l'abbiamo chiamata come primo nome Tarfaya, che poi è stata abbreviata a Tarfi. Mohammed perché in Africa tutti si chiamano Mohammed e quindi doveva chiamarsi Mohammed anche lei. E poi Tantan perché è la città in cui l'abbiamo comprata. Troppo bellina. Bello, quindi si porta sempre dietro le sue radici, sì, alla fine. Sì, esatto. Letteralmente. Quindi è letteralmente. Esatto. Anche letteralmente, sì. Esatto. Quindi è Tarfaya Mohammed Tantan Junior adesso. Comunque mi viene da pensare che è anche interessante il fatto che, poi io non lo so, non so benissimo la storia, ma che tu abbia scelto proprio il basilico, che è un po' anche un simbolo dell'italianità. Sì. Quindi hai cercato in una pianta delle radici che comunque ti ricordassero, diciamo, casa, ti facessero compagnia e ti facessero capire. Sì. E ovunque tu vai, casa la trovi, ecco. Sì, questo era successo per due motivi. Uno perché nel banchino dove l'ho presa c'erano un po' di piante grandi, un po' cioè proprio di dimensioni, arbusti, insomma, ovviamente non facevano al caso come mio. Come un bel alberino in macchina. Esatto, guarda. Nel lavandino anche lui. Perché no. E quindi ho dovuto scegliere fra piante piccole e poi perché le altre non avevo idea di cosa fossero, quindi ho detto vai, prendiamo qualcosa di cui so, conosco un minimo sì. Le esigenze, se no aiuto. E quindi sì, era andata così. E altro pezzo? Altro pezzo, dai, anche perché... Come si chiama questo? Fammi indovinare, 50. Già, si chiama 50. Quale mettiamo? 50? Sì, dai, di Billy D and di Hoodoos, 50. Aiuto, aspetta, arriva, scusate, è che si stavano sovrapponendo 50 Cent con questo carinissimo pezzo, direi che non era il caso. Dai, ci riproviamo. We'll be right back. I wonder if she has a sister. Per fortuna in questo universo di trashaggine invece qualcosa si salva e quindi qualche buon bel pezzaccio musicale lo mettiamo anche quest'oggi. Siamo sempre su Nervature, trasmissione vi parla di piante e soprattutto oggi delle piantastorie. E, 20 e 17 in questo nostro universo, fateci sapere anche nel vostro che ore sono, magari siete un po' in ritardo, oddio, perché di solito funziona così. E fatecelo sapere sul pad, quindi diretta wombat.vado.li. Siamo quasi in chiusura di puntata, mancano teoricamente gli ultimi 13 minuti, ma no, possiamo sforare. Sforiamo. Certo. Si sta così bene in questo caldo. Ma sì, in questi 47 gradi. E quindi io continuerei su questa scia di tranquillità, di piantastorie. E quindi Palus, ci vuoi raccontare la tua seconda? Ok, allora, ci ho pensato mentre si ascoltava questo mix di 50 Cent con Billy D. Scusate il piccolo problema tecnico. E, allora, un'altra pianta che mi sento di condividere con voi è lo Smanthus. Per chi non la conoscesse, il nome scientifico questa volta me lo ricordo, è Osmanthus fragrans, e è una pianta a cui tengo particolarmente, ma mi sono accorta di tenerci tipo in questo istante, quando stavo cioè proprio così a caso, pensavo e ho detto ah, lo smanto. Lo smanto è una, come ci suggerisce il nome scientifico, fragrans, è una pianta profumatissima, ha dei fiori spettacolari, nel senso sono piccoli, quasi insignificanti, possono essere o gialli o arancioni, dipende dalla varietà, riuniti in mazzetti. Uno vedendoli dice, sì, vabbè, bello nell'insieme, ma se vede il fiore singolo sarà una cosa tipo mezza unghia di dimensione, quindi niente di che. Eppure, ragazzi e ragazze, un odore pazzesco, ti giuro, buonissimo. E come mi ha fatto notare un mio collega giardiniere, sa di cornetto all'albicocca. Questa cosa è bellissima, io non so come gli sia venuto in mente. Non lo so, ma è presente proprio quello che mangi da bambino quando esci dalla piscina, oppure sì. Ti giuro, sa di quel cornetto lì. Quelli confezionati, sì, quindi. Quelli okay. Confezionati, okay. No, perché quelle altre sono un po' troppo così altolocati, un po' troppo borghesi. Ovviamente giusto. Noi ci possiamo permettere solo roba da prolet e quindi cornetto confezionato. Alla bicocca, non al cioccolato, alla bicocca. Vi giuro, un profumo pazzesco. E perché sono legata particolarmente a questa pianta? Perché ho sentito il suo odore per la prima volta in un posto, in una villa in cui ho fatto, diciamo, il mio tirocinio, dove c'era anche questo orto, un orto bellissimo, proprio un orto giardino tenuto stupendamente, dove ci sono questi due Osmanthus secolari, bellissimi, meravigliosi, che danno un profumo che a volte alcune persone dicono, ma lo sai che ho sentito questo profumo a 50 metri di distanza, quindi per farvi capire quanto grandi e quanto profumati sono questi Osmanthus. E sono particolarmente legata anche a questa pianta proprio perché, oltre al profumo, al periodo, mi fanno ricordare una bella persona che ho conosciuto in questo orto, che spero che mi stia ascoltando e casomai saluto, tanto lui lo sa o lei lo sa di chi sto parlando, che sto parlando di lui, lei. E insomma, è una persona a cui tengo molto, una persona bellissima, e diciamo, quando sento l'odore dello smanto mi ricordo quel periodo in cui si chiacchierava in questo orto nella semplicità di lavorare la terra, nel frattempo un po' a scavarsi dentro. Quindi anche questo è molto bello. E tra l'altro, secondo me, lo smanto ha anche questo, diciamo, come dire, valore particolare simbolico del fatto che è proprio un fiore quasi incospicuo, insignificante, a mandare un profumo tremendo. Cioè, tremendo nel senso di che ti coinvolge totalmente. Alcune persone sono schifate da questo, da quanto è dolce. Sì, è un po' come l'odore del falso gelsomino. Esatto, esatto. Mm. E altri invece lo adorano. E questo, parlo corsivio, mi fa un po', diciamo, pensare a quanto una persona può dare molto di più dell'aspetto, a quanto ci può essere dietro di impalpabile che non si può vedere, che però in realtà ti cambia, ti rivoluziona, così proprio come il fiore dello smanto. Wow, ci emozioni con queste storie proprio. Perché sono personali, secondo me. Cioè, ci penso e dico... Sì, sì, ma si vede che proprio sì, ti accendono. Grazie, Zazi. Bella. Bella. Grazie. Bella. Ora dobbiamo mettere una canzone altrettanto bella per coronare questo bellissimo racconto. A lei la responsabilità di aver detto questa cosa. Aiuto. Quindi altrettanto trash come il sottofondo che ti stavo mettendo. Dai, giusto? Sì, esatto. Ci sta. Ma io non so cosa mettere, aspetta. Ma metti, sì, dai, metti 50 di Lasso. Cine otra vez. Será con sus padres de vuelta en tu casa a las 10. Debes elegir. No me otro error. Esto es realidad. Tú mereces estar cantando todo el día, riendo sin poderte parar. Vamos a celebrar. Eccoci qua. Sì, dai, non era troppo trash in realtà, anzi per niente quasi. No, era simpatica. No, simpatica. Ma sì, molto giusta. Ma sì. Bene, allora passiamo a un'altra pianta storia. Cioè, ormai questo ormai è il format. C'è flusso qua, flusso di pensieri di sì, storia. Sì, Zazzi, ce ne vuoi dire qualcuna? Vado, allora. La mia storia invece torna su tempi più recenti. Quindi quando io appunto stavo nella mia casa di origine durante il Covid. E nei periodi in cui bisognava stare per forza, diciamo, confinati in casa dove non c'era alcuna possibilità di uscire, e mi sono ritrovata molto spesso a disegnare questi alberi che avevo di fronte casa, che erano due cedri che spuntavano tra i palazzi e che mi hanno portato poi appunto anche nei giorni successivi ad approfondire un po' questa, questo modo di crearmi quasi un erbario disegnato di un po' tutti gli alberi che vedevo dalla mia camera o dalle altre stanze di casa, e che poi appunto quando c'è stata insomma possibilità di poter uscire o comunque di fare anche delle passeggiate lì intorno, mi sono portata... mi capitava spesso di portarmi questo blocco con me e di disegnare, continuare a disegnare un po' altre alberature o erbacee o piante che comunque trovavo in giro e che mi colpivano, e anche proprio come gesto, diciamo, ripetitivo per insomma diventare, entrare sempre più nel dettaglio, cercare di capire appunto i vari caratteri di queste specie utilizzando anche tecniche diverse. E niente, questo devo dire che è stato una cosa che un po' mi è piaciuta di ripoter riapprendere durante, diciamo, questo periodo. Certo. Sì. Bello, poi ce le devi far vedere questi cedri, perché dovete sapere che Zazì è veramente molto brava a disegnare soprattutto elementi naturali quali alberi, piante, e sono davvero curiosa. Poi bello trovare del positivo in un momento così negativo, ecco, diciamo, qualche cosa di palliativo magari, questo disegnare. Sì, sicuramente era una cosa, diciamo, che avevo trovato un modo per, non so, per non starmene lì così. A non far niente. Esatto, avevo ritrovato questa come via, un po' perché era tanto che volevo disegnare di nuovo e in un momento di pausa ho cercato appunto di riprenderla come attività. Bello. Era un soggetto che ti ispirava comunque. Era un soggetto che pare. Mi ispirava sicuramente meglio di tutti gli altri brutti palazzi che avevo di fronte. Mamma mia, guarda. Quello sicuro. È una fortuna vedere dalla propria finestra almeno un albero. Sì. È veramente, secondo me, è essenziale. Per fortuna io ne vedo due, tra l'altro uno sta male, infatti sono molto preoccupata. Eccoci. E spero che non lo abbattano, perché veramente mi ci incateno stavolta, perché non è così malato, sta solo un po' male. Sì. Però è davvero una fortuna. Altra storia appunto divertente su questa, divertente insomma, su alberi che si vedono dalle finestre comunque vicino casa, riguardano una quercia che è appunto anche quella proprio di fronte a un'altra finestra, sempre appunto del tuo castello, del mio castello, delle molteplici finestre che ho. E mi ricordo che durante il periodo del Covid sempre mi arrabbiavo tanto, perché stavamo forse anche nei nostri studi legati appunto alla botanica, potature, eccetera. E mi ritrovavo spesso a tipo litigare con me stessa, cioè a tipo discutere con me stessa e il coinquilino che era proprietario di questa quercia, che ovviamente non poteva sapere niente, tutto quello che io gli dicevo, perché continuava a potarla sempre più corta, sempre più per a tagliarle i rami, sempre più tenendola in forma. Ed era però appunto faticosamente una quercia bellissima, e io ogni volta stavo lì a dirgliele tante. sì. Cavolo, a guardare il cantiere. Esatto. Sì, c'è veramente poca consapevolezza della potatura. Non so se abbiamo fatto una puntata o se hai fatto te in autonomia ad una puntata, però sarebbe bello rendere consapevoli le persone, voi ascoltatrici e ascoltatori, di quanti scempi ci siano a giro. Sì. Ti giuro. Tra l'altro, breve storia, easter egg. Non so se ve lo ricordate, Zazì e Addu. Io me lo ricordo. Addo se lo ricorda che originariamente l'immagine di Nervature sì, è vero. Doveva essere una potatura orribile di un povero cedro, che tra l'altro le gimnosperme a cui appartengono i cedri solitamente non si potano, comunque si potano molto poco. Questo era diventato uno scovolino, ti giuro, uno scovolino che puoi trovare nel peggior gabinetto del peggior bar di Caracas. Orribile, orrendo. Infatti la diatriba era: ma meglio foto nervature o foto spelacchio? Ovviamente Palù ha votato foto nervature, perché quindi non potevo vedere ogni volta che accedevo sul sito quello scempio orribile. Però effettivamente ora mi ci fa pensare, sarebbe perfetto usarlo per come immagine di copertina. Immagine di una della puntata sulle potature. Esatto. Perfetto. Ce l'ho ancora, la foto ce l'ho. Purtroppo. Insomma, dà una bella impressione di quello che non vorremmo vedere in giro. No, quindi comunque no. Tremendo. Sì, me lo ricordo, bellissimo. Dai, che si fa? Un altro pezzo o ci racconti te, Addu, una pianta storia? Pezzo? Vai, dai, facciamo un'altra piccola interruzione. Io ce n'ho un'altra pianta storia, dopo. Olè. Wow. L'ultima, via. Bene, si va con questo, indovinate, 50 si chiama questo brano, di André Abu Yamra, chissà. Lo troverete scritto nella scaletta. Nomi difficili quest'oggi. Vai. Sobe na montanha azul e lá em cima vê a lua cheia, quase que dá pra pegar, mas a montanha azul e lá embaixo vê a lua cheia, quase que dá pra pegar. Que a metade seria mais fácil saber a idade que vamos partir daqui. 50 mais 50 dá 100. 100 talvez seja muito. Quero viajar o mundo todo. Queria ir pra Maputo. A cabeça tem gás. Ainda aguenta pelo menos mais 50. Sem tendinite, sem sinusite, com mimadice ou com chatice, mas também com risada, brincando com a molecada. Verdade pra mulher amada, com pipoca na almofada, com amizade que não seja quebrada. Violão na fogueira, sem smartphone, com o velho pai comendo popetone, com os filhos crescendo no mundo estragado, mais felizes da vida por serem amados, com a diferença unindo e não rechaçando, com o artista que cria cada vez mais criando, com os dedos do árabe contando os amigos. Passando, a criançada nascendo, eu me repito, mas sigo crescendo, matando minhas certezas, recriando belezas, falando sem falar, tentando explicar, com barulho, com som, ou mesmo com olhar, errando, sofrendo, como todo bene, bene. Troppo lunga sta canzone. Sì, basta. Cioè, basta. Oh, quanto... Via. Si è capito questi ah, 5 qua? Ah, no, no, c'ero. Io non c'ero, scusami. Ah, ok. Sì, sì, sì, no, basta, via, sta canzone si è capito. Sì, un po' 50, la... va bene, ancora sì, qua sì, siamo. 50 sì, minuti sì. Dura. Esatto. E via. Infatti, no, continuiamo, continuiamo con cosa? Sempre la solita pianta storia. Ok. Continuiamo, sta a me, giusto? Sì. Sì. Arriva il mio turno. Allora, la mia pianta storia. La mia pianta storia riguarda come ho conosciuto il mio compagno. Olè. È stato molto carino. Storia molto... di amore. Amore, sì, sì, sì. Quindi deve dirla tu, Kat, così. Ho tutta così, la vado a dire tutta così. Mi è venuto addirittura il francesismo, tra l'altro. Assurdo. La vado a dire. Vabbè. La vado a dire. Dunque, allora, intanto l'ho conosciuto perché stavo facendo una passeggiata in campagna. La stavamo facendo entrambi, a quanto pare, quindi ci siamo intanto incontrati così, quindi in un contesto già molto, molto, molto naturale. Il punto è che lui era con altra gente, altri amici, e si erano fermati in un punto, insomma, ascolta musica, così, a chill out, praticamente. E, era il periodo del Covid, quindi io non vedevo anima viva da 2 mesi e mezzo, non so quanto. Ho visto un gruppo di persone giovani... Sono rimasta molto, molto perplessa. Esistono, infatti. Ci sono ancora. E ho detto, non avevo in realtà nessuna voglia lì per lì di chiacchierare, tipo, però ho detto no, cioè non posso andare via facendo finta di niente. E meno male l'hai fatto. E infatti, capito? Sì, e quindi mi sono fermata lì a chiacchierare, molto spavalda, devo dire, perché, cioè, allora che gliene fregava, niente. Il punto è che ho chiacchierato un po' così a giro, poi mi sono presa bene perché pigliava bene, perché no, era gente interessante. E quindi io così, molto fricchettona, come sempre, insomma, a un certo punto non stavo parlando con nessuno, sono andata a fare 2 passi proprio, cioè lì, lì accanto, e si era su un prato, no, così. Quindi c'erano un po' di fiori, un po' di fiorellini, io l'ho colti un po', ho fatto un mazzo di fiori in miniatura, cioè proprio una di queste cazzate da sì, bambini, proprio, esatto, cioè queste robe. Quindi da dare alla mamma. Sì, esattamente, le margheritine da dare alla mamma. Però vabbè, era così in questo spirito di amore, insomma, di gratitudine, e quindi ho preso questo mazzettino di fiori e l'ho appoggiato sopra la cassa della musica, la quale musica la stava mettendo il mio attuale compagno. E niente, è finita lì. Quindi io l'ho appoggiata lì, buone, ciao, ho continuato a chiacchierare con loro, eccetera. Poi, col tempo, insomma, appunto, è diventato il mio compagno lui, e mi ha detto successivamente che lui mi aveva notata anche perché, forse soprattutto, perché avevo fatto quel piccolo gesto. Cioè, lui si era accorto di questo gesto. Bello. Si era accorto perché era... cioè, si era accorta appunto che era un gesto di gratitudine nei confronti, non specificatamente suoi, ma insomma della situazione. Era piacevole, ero contenta di finalmente parlare con qualcuno, insomma. E quindi grazie a un mazzolino di fiori... che viene dalla campagna, invece dalla montagna. Invece dalla montagna, esatto, sì, esatto. Ho avuto in mente questa canzone per tutto il giorno, lo sai? Davvero? Te lo giuro. Ma questo giorno? Questo oggi, sì. Oddio! Siamo troppo collegate. Madonna, bellissimo. Bello. E sì, quindi è andata così. Insomma, vedi, però è interessante perché è una storia molto semplice e dove le piante hanno un ruolo molto marginale, se vogliamo. Però mi piace comunque raccontarla perché, come dicevo prima, siccome di pianta storia mi piace scovarle, perché mi piace vedere quali sono i rapporti fra uomo e piante, se ce ne accorgiamo oppure no, come dicevo prima. In questo caso me ne sono accorta, nonostante fosse un ruolo appunto marginale della storia, che però in realtà siamo sempre collegate, no? Vero, certo, verissimo. Certo, bella questa molto storia. Molto bella. Così. E quindi le piante sono quelle selvatiche, un po' fiorellini selvatici. Sì, sì, sì, in quel caso sì, c'erano, non so, quei carotoni selvatici, qualche spiga, non so bene cosa ci fosse. Forse in quel periodo, boh, non so, non mi ricordo cosa c'era in quel mazzolino di fiori. Boh. Tanto più o meno i fiori di carota selvatica ci sono quasi sì, tutto sì, quelli l'anno. Sempre, infatti. Io, infatti, lo sai, è uno dei miei fiori preferiti. È bellissimo. Io lo amo. Sì, sì. Le ombrellifere bianche, belle, troppo sì, belle. C'hanno quando un'eleganza. Quando sempre esce, sì. È bellissimo. Sì. Allora, a proposito di fiori, Vai. Perché per ora abbiamo raccontato, ora tranne Addu con questa sua ultima pianta storia, abbiamo raccontato, se non sbaglio, piante storie che riguardavano alberi, nel senso qualcosa di grande che noti, che vedi, cioè, o almeno si dovrebbe notare e vedere, ecco. E io invece ho un'altra pianta storia, legata stavolta a un fiore. Il fiore non mi ricordo assolutamente e non l'ho neanche cercato come si chiama in latino scientificamente. Narcissus esiste. Narcissus? Sì, boh. Poi non so cosa. Comunque si dice volgarmente narciso, altrimenti detto anche giunchiglia, un nome molto poetico, ed è un fiore a cui sono particolarmente legata. Perché? Anzitutto perché oggi sono presa un po' poetica, un po' ricordi d'infanzia, e mi ricordo che mio nonno è stato un contadino che vendeva anche, diciamo, i fiori, oltre che al suo raccolto, a giro per Firenze. E mi ricordo di questa distesa di narcisi che lui raccoglieva e metteva a posto, diciamo, rassettava in maniera appetibile visivamente per i clienti, insieme alla mia nonna. E quindi c'è questa, questo insieme di giunchiglie che decorano il bordo della casa di campagna, che un po' ha caratterizzato la mia infanzia con le mie cugine, i miei cugini, la mia famiglia. È proprio una cosa che mi fa dire: questo fiore fa parte della mia storia. E oltretutto, appunto, bellissimo, perché è anche divertente, perché oltre a essere bello esteticamente, c'è anche il fatto che il mio nonno le aveva dato, diciamo, non lui, ma nella tradizione fiorentina, un nome che a me divertiva troppo, perché secondo me è perfetto, rievoca perfettamente la forma del fiore, ovvero tromboncino. È un nome troppo simpatico, secondo me, e perché appunto c'ha questo fiore che sembra una trombetta, e io mi immaginavo un po' di suonarla questa trombetta. E come al solito, niente a caso, e infatti cresco, la casa fa diciamo il suo percorso, e però mentre sto a studiare al liceo, studiavo letteratura inglese, mi innamoro di una poesia che per l'appunto ha come titolo Daffodils, e mi chiedevo: ma che sono sti Daffodils? Vabbè, cerco. Vagabondavo da solo come una nuvola che fluttua in alto sopra le valli e le colline, quando improvvisamente vidi una folla, una schiera di giunchiglie dorate vicino al lago, al di sotto degli alberi, ondeggianti e danzanti nella brezza. Continue come le stelle che risplendono e scintillano nella Via Lattea, si estendevano in una linea senza fine lungo il margine della baia. Ne ho viste 10.000 con un'occhiata che scuotevano le loro teste in un'allegra danza. Le onde accanto a loro danzavano, ma esse superavano le onde spumeggianti in gaiezza. Un poeta non poteva che essere felice in una tale compagnia giocosa. Io fissavo e fissavo, ma pensavo poco a quale ricchezza lo spettacolo mi aveva dato, perché spesso, quando sono sdraiato sul mio divano, in uno stato d'animo ozioso e pensieroso, esse appaiono improvvisamente in quell'occhio interiore che è la beatitudine della solitudine, e allora il mio cuore si riempie di piacere e danza con le giunchiglie. Poesia meravigliosa, ti giuro, mi tocca proprio le corde dell'anima. Splendida, sì. Che bella, davvero, guarda, grazie per questi contributi fantastici, prego, poetici. Un po' un piccolo spoiler magari di una puntata futura in cui parliamo di piante e poesia. Esatto, esatto. Questa va sicuramente riproposta. Sì, ve la ripeterò. Tra l'altro, a proposito di narcisi, già in una scorsa puntata, che se non sbaglio era quella sul bouquet e mazzi di fiori, abbiamo letto un articolo che parlava delle cosiddette narcisate, appunto, che erano queste passeggiate in alta montagna dove gente dei paesini vicini andava a farsi queste grandi scampagnate tutte in comitiva e andavano appunto a raccogliere narcisi per poi portarsi a casa oppure venderli, i bambini magari li vendevano per le strade, così, quindi se volete ve lo andate a rispulciare anche in questa vecchia puntata. Che dire, quindi? Direi che si è fatta l'ora. Si è fatta l'ora. Sì, sì. Però davvero bello. Tra l'altro questa conclusione anche poetica. Infatti. Non vorrei infatti spezzare un qualcosa di particolarmente trash in questo momento. Ok, allora andiamo con 50 di Pete Rodriguez. Sì, ora ve la mettiamo. Vorrei però quindi ricordare un'ultima volta, giusto per annoiare per l'ennesima volta le ascoltatrici, del perché abbiamo fatto questa puntata, ovvero tutte queste canzoni con il numero 50. Siamo ossessionate oggi da questo numero perché oggi è la 50ª puntata di Nervature. Yay! Brave, brave, yes. Tutte brave. E quindi speriamo, ma io sono sicura, vi assicuro, anzi anche a voi, che questo progetto continua e continuerà e andrà avanti. Quindi speriamo di arrivare anche alla 100ª puntata e lì, fuori d'artificio. No, lì davvero, tutte fuochi d'artificio. Sì, sì, sì. Quindi per celebrare questa puntata ho chiamato voi, quindi Falù e Zazzi qui con me. Grazie tantissimo di questo regalo. Grazie a te, Addo. E non solo, anche Maurizio ha partecipato per un breve momento, per quello che ha potuto, finché appunto non è cascata la linea, in differita con noi. Quindi grazie tantissimo anche a Mau e davvero vi ringrazio perché sono contenta che questo progetto sta funzionando e sta andando avanti. Quindi come abbiamo celebrato questa 50ª puntata raccontandoci a vicenda un po' di piantastorie. E quindi concluderei, prima di mettere l'ultimo brano, di nuovo con la sigla, che in questo caso quindi farà da sigla di chiusura, okay, della piantastoria. I nostri esperti interessati a dialogare con le piante. Piantastoria. E registrarne la sensibilità. E così quindi si conclude la puntata odierna, 50ª puntata, vediamo come chiamarla. Potrebbe essere anche la puntata delle piantastorie, effettivamente abbiamo detto. Sì, sì, sì, ne abbiamo... Guarda, è stato un bel momento di condivisione. Vero, tutto, vero, come... sì. Sì. Bello, bello. Che dire quindi, ci ritroviamo con voi ascoltatrici lunedì prossimo, che sarà agosto, ragazzi. Che caldo. Io continuo a trasmettere imperterrita, dai, che ci a si prova. Non molli. Sì, ma tanto le mie vacanze saranno poi, quindi per me agosto non significa niente. Bella. Allora, vi aspettiamo anche per dare un po' di soddisfazione, giustamente, ad Addo, che è qui, che trasmette imperterrita, su radiowombat.net. La prossima volta scriveteci, che questa volta oggi non ci avete scritto, eh? Io mi sono quasi offesa perché era la mia 10ª puntata, volevo rispondere, volevo complimenti, e invece niente. Scriveteci su diretta@wombat.vado.li e chiacchiereremo insieme nuovamente. Esattamente, quindi vi lasciamo con un ultimo brano che indovinate un po', si chiama 50. 50? San Conte? 50? Non lo sappiamo. Vabbè, ormai tanto abbiamo fatto tutte le lingue. Esatto. Forse 50, perché l'artista è Pete... Pete Rodriguez. Esatto. Ah, sì, dice, sarà, allora sì. Chissà, probabilmente lo dirà. Quindi... Lo dirà, lo scopriremo. No, instrumental. Vabbè, vai. Vabbè, allora nel caso voi. Va male. È una sorpresa per tutte. Benissimo, rimanete connessi ovviamente su Radio Wombat. Viva il Wombat. Ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 19 con Nervature. Buon ascolto e buonanotte. Ciao, grazie.